the hummingbird, whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly, whose days but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Listen to the hummingbird, whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Ciao a tutti. Questo era Leonard Cohen, che come al solito ci ricorda di ascoltare. E per la puntata di oggi mi piacerebbe leggere e tradurre il testo, perché è molto pertinente a quello di cui parleremo. Il testo dice così: ascolta il colibrì, di cui non puoi vedere le ali, ascolta il colibrì, non ascoltare me. Ascolta la farfalla, i cui giorni sono solo tre, ascolta la farfalla, non ascoltare me. Ascolta la mente di Dio, che non ha bisogno di essere, ascolta la mente di Dio, non ascoltare me. Adesso forse la mente di Dio è un po' la parte che meno si interseca con i nostri argomenti di oggi, ma il colibrì e la farfalla, quindi l'idea di ascoltare la natura che ci circonda, invece che le voci delle persone che ci parlano, o insieme alle voci delle persone che ci parlano, è proprio il tema di cui parleremo oggi. Siamo qua con Lu, che è una grande amica, una geografa, una appassionata di ecologia e una musicista, DJ, producer, con cui abbiamo fatto tanta musica insieme, con cui sono molto contento di fare musica oggi. Con Lu parleremo di ecofemminismi e quindi di cura del territorio, di appunto un approccio ecologico alla vita e alle pratiche di vita, e parleremo di musica e del perché ha senso coniugare un'attenzione, una cura verso il nostro territorio all'ascolto dei suoni che ci circondano e della musica. Quindi riallacciando il tutto a questo programma, a Club Chimera, un programma dedicato all'ascolto, dedicato ovviamente al mondo dei suoni e della musica, ma anche a tutte quei movimenti, quelle tematiche, quelle pratiche che anche tangenzialmente vanno a toccare questi mondi dei suoni e delle musiche. Quindi, per prima cosa, ringrazio Lu per essere qua, la saluto e le chiedo se vuole presentarsi, magari se vuole raccontarci qualcosa di più di sé, e anche magari da questa sua presentazione di una persona che sia geografa che musicista, iniziare a raccontarci perché ha senso parlare di ecologia in un programma musicale. Ciao, sono Lu e grazie per avermi chiesto di fare insieme questo episodio. Ha senso dire che sono geografa, forse per giustificare il motivo per il quale mi sono avvicinata a questo tema dell'ecofemminismo. Ho fatto questo corso di studi che si occupa appunto di indagare le relazioni che intercorrono tra società umane e territorio, e si cerca appunto di indagare sui vari concetti di sviluppo che sono stati promossi, su come si è arrivata alla definizione di primo mondo, terzo mondo, tra molte virgolette. E quando abbiamo trattato il tema delle geografie dello sviluppo, si è anche parlato tanto di ecologia politica, e si è parlato dell'ecofemminismo come forma di resistenza a un'unica idea di progresso che è quella promossa dal sistema capitalista. E siccome mi piace molto l'ecofemminismo come forma di resistenza rispetto a determinate dinamiche che vanno un po' a intaccare il territorio in una forma violenta, mi piaceva l'idea di provare ad avvicinare le persone a questa tematica in un modo un pochino più creativo, quindi anche attraverso la musica. E niente, vorrei fare una piccolissima premessa, siccome mi hai ringraziato in ambito di gratitudine generale, e volevo ringraziare delle amiche, Matilde, Melissa e Francesca, che hanno condiviso con me le loro ricerche, i loro scritti sull'ecofemminismo, e mi hanno dato tantissimi spunti, tantissimo materiale su cui riflettere e sul quale anche costruire un discorso per la puntata di oggi. E hai parlato di un modo anche alternativo per avvicinare le persone alle tematiche del movimento ecofemminista. Vuoi raccontarcene un pochino di più, che così anche iniziamo ad ascoltarlo mentre chiacchieriamo? Diciamo che siccome l'ecofemminismo punta un po' a superare questa separazione che poniamo tra noi e l'altro, che è anche un altro naturale, un altro ecosistemico, che può essere vegetazione, può essere fauna. Ho fatto una traccia che mischia dei suoni che sono registrazioni di venti, di acqua e di percussioni che derivano da registrazioni di materiali organici, e mischiati a musica elettronica. E poi questa traccia è stata riprodotta in uno spazio dove appunto si è creata l'occasione di fare una specie di installazione sonora, credo che si possa chiamare così. E l'obiettivo di questa installazione era proprio permettere alle persone, anche tramite una sorta di paesaggio sonoro, di riallacciarsi con questo altro ecologico. E si mette adesso in sottofondo, ed è un po' quello che accompagnerà questa puntata. E quindi sì, l'idea è che già mentre chiacchieriamo sentirete questa traccia composta da Lu. Come ascolterete, parleremo anche più a fondo delle interconnessioni tra suono, ascolto e un approccio ecologico allo stare al mondo. E poi avremo tutta una parte musicale che ci guiderà verso un momento di festa finale. Quindi arriviamo nel centro delle nostre discussioni, iniziando con la domanda di definizione. Okay. Se ci vuoi raccontare cos'è l'ecofemminismo? Allora, innanzitutto è un movimento, è una forma di attivismo che quindi per questo comprende anche una serie di pratiche. È un approccio, è una combinazione di ecologia e di femminismo. E all'ecofemminismo si deve riconoscere il fatto di aver colto le connessioni tematiche che legano la sottomissione delle donne al dominio della terra. E in pratica l'ecofemminismo riconosce che donne e natura sono sottomesse dallo stesso tipo di dominazione che è individuato nel nostro sistema economico. E l'attivismo ecofemminista esiste ovunque la riproduzione sociale ed ecologica della vita è minacciata, che sia questo per inquinamento di qualsiasi tipo, per rifiuti tossici, o che sia questo per violenza razzista, per lo sfruttamento di chi si dedica alla cura. È un tipo di attivismo che agisce ovunque ci sia la minaccia di perdita di biodiversità tramite la deforestazione o tramite la cessione di terre ancestrali, di terre indigene, in nome del, tra moltissime virgolette, progresso. E le ecofemministe sostengono che l'emancipazione umana da questi atteggiamenti, queste violenze storicamente patriarcali, non può essere raggiunta senza la liberazione di tutti quegli esseri che vengono classificati come altro. Questo altro è un altro, appunto, ecologico. E per raggiungere questa liberazione si propone una ricostruzione tra l'umano e la natura, ma anche tra uomini e donne, e si cerca di decostruire questi concetti binari, gerarchici, che sono proprio derivati da questo dualismo, da questa separazione uomo contro natura. E appunto mira a una forma di, a una visione del mondo che è basata nella cura, nella differenza di tutte le forme di vita. E qui, quando parliamo di cercare di riallacciare ciò che è stato separato, già ci riallacciamo ai primi discorsi fatti in questa radio riguardo al mondo dei suoni, al mondo dell'ascolto. Tutto è nato da il parlare di come la nostra società, la nostra cultura è molto basata su un senso della vista, però un senso della vista che oggettifica e tiene a distanza il mondo che ci circonda per poterlo analizzare razionalmente, per poterlo oggettificare, per poterlo controllare. E quindi ancora una volta parliamo di un movimento che cerca un'unione dinamica tra corpi, persone e relazioni, ed è lo stesso che quasi propone di fare cercando di ascoltare il più possibile, di lasciare che i suoni entrino in noi in un certo senso, che creino delle dinamiche e delle relazioni tra noi e il mondo. E ritornando invece a pratiche più prettamente ecofemministe, volevo chiederti se ci vuoi raccontare anche nel concreto quali sono delle eroine militanti, attiviste, e quali sono state le loro lotte, come si sono presentate come attività politica o militante. È un discorso ampissimo questo, potenzialmente. Ci sono un sacco di eroine, ci sono un sacco di donne che ammiro tantissimo per il loro contributo alla salvaguardia dei territori. E diciamo che ho cercato di trovare come dei personaggi simbolo del movimento ecofemminista e una che ammiro tanto, che apprezzo molto, è sicuramente Vandana Shiva, che è una scienziata, è una fisica, è un attivista e è anche una contadina. E lei ci tiene molto a definirsi così perché ci tiene anche a appunto dare molto valore alle conoscenze che le sono state date dalle donne di luoghi rurali dell'India per quanto riguarda i cicli della vita, i cicli della natura e come tutelare l'altro ecologico indipendentemente dal fatto che queste conoscenze siano state passate in un ambiente accademico o meno. E lei ha fatto parte del movimento CIPCO, che è stato questo gruppo di donne che si sono poste a difesa di una parte settentrionale dell'India. Praticamente sono le donne a braccia albero, che appunto come forma di attivismo hanno proposto il fatto di abbracciare degli alberi per impedire l'avanzata di ruspe che stavano per andare a causare un forte impatto a livello di deforestazione in questi territori. E rispetto all'ecofemminismo, lei lo definisce come la rimozione dei paraocchi che ci hanno fatto credere finora che la natura sia morta e che le donne siano passive o addirittura oggetti. L'ecologia implica che la terra sia viva e il femminismo che le donne siano uguali. E per lei l'obiettivo dell'ecofemminismo è arrivare a trasformare l'economia nell'arte di vivere. E questo unendo il nostro approccio al progresso, alla cura. E gli esperti della cura sono le donne e loro dovranno avere il ruolo di liderare nella transizione verso l'economia della cura. E qua per cura si intende l'attenzione che dedichiamo alle relazioni con l'altro e con l'ambiente in cui viviamo. Ed è un aspetto fondamentale quello della cura, proprio in risposta ai cambiamenti climatici. Questo poi si lega anche a un altro discorso gigantesco di ecologia politica, che è quello del gender gap. Mm-hmm. Gender gap, no, lo conosciamo tutte, è questo fatto per cui se facciamo lo stesso lavoro io vengo pagata meno in quanto donna, o se c'è l'occasione di una genitorialità molto probabilmente sarà la figura femminile a dover lasciare la sua carriera per stare dietro alla famiglia, eccetera. E quando si parla di eco-gender gap si vuole indicare proprio questo fatto per cui le donne hanno un ruolo fondamentale nella cura dell'ambiente, perché promuovono battaglie di tutela ambientale, perché sono abituate a occuparsi di ciò che è importante e che però non ha valore nell'economia di mercato che è orientata al progresso. E il problema è che poi quando ci sono delle questioni politiche che implicherebbero la salvaguardia dell'ambiente, eccetera, non vengono prese in considerazione, non sono coinvolte nelle decisioni politiche che permetterebbero una tutela del territorio. Mm-hmm. E questo è un po' il pensiero di Vandana Shiva. Poi ho pensato anche di parlare di Rachel Carson, che è stata la madre dell'ambientalismo statunitense. E lei, più che per l'ecofemminismo, penso che sia importante citarla per il fatto di aver riconosciuto per la prima volta le interconnessioni che ci sono tra le nostre azioni umane e le ripercussioni sull'ambiente. E lei ha scritto Primavera Silenziosa, dove denuncia l'utilizzo di pesticidi, di agrochimici, e appunto denuncia gli effetti, le retroazioni che l'impiego di questi chimici nell'ambiente hanno poi sulla nostra salute e sul resto delle reti ecologiche. E questo poi anche accade negli anni 60, in un momento di grande fiducia nel progresso, in cui probabilmente poche persone si erano immaginate di andare a criticare. Sì, assolutamente, questi pesticidi. Coraggiosa, sì. Sì. E poi è anche difficile trovare nomi di persone che hanno portato avanti delle battaglie, e ho avuto la fortuna di potermi avvicinare ad alcune notizie che riguardavano il territorio boliviano, e questo per dare un po' un'idea di come e perché si portano avanti determinate battaglie. Ho pensato di citare alcuni nomi, come ad esempio Margarita Aquino, che si è battuta unendo le proteste di alcune popolazioni indigene e campesinas, quindi che facenti parte di una ruralità boliviana, contro la contaminazione da estrattivismo minerario. Oppure c'è Ruta Lipaz, che invece è contro il colonialismo verde e continua a difendere il suo territorio, che fa parte del Parco Madidi, uno dei parchi più biodiversi al mondo, e dalla costruzione di una centrale idroelettrica. Paola Gareca, che invece è contro l'esplorazione petrolifera dentro la riserva di Tarichia, che invece è confinante con l'Argentina. E questo per dare un po' di esempi che sono magari molto lontani da noi, culturalmente parlando, perché sono tutte donne che fanno parte di comunità indigene, quindi comunità, luoghi dove il rapporto con la terra è molto diverso da quello che possiamo sviluppare noi in nella nostra geografia. E per portare un esempio che invece appartiene al nostro territorio, e che io ritengo una forma di ecofemminismo, sono ad esempio le proteste che continuano a portare avanti da anni le madri del quartiere Tamburi rispetto all'Ilva di Taranto, che denunciano l'inquinamento causato da questa acciaieria e quello che causa, no? L'insorgenza di tumori infantili con una percentuale altissima. E quindi niente, ci tenevo a dire qualche nome o a raccontare di qualche caso per appunto ringraziare, riconoscere, dare eco anche un po' a queste battaglie, a questo tipo di attivismo. Per quanto riguarda esempi vicini al nostro territorio, avevamo anche parlato di l'associazione Donne in Campo, di cui fa parte mia zia Renata Lovati, che saluto se ci sta ascoltando. Persona che mi ha insegnato tantissimo per quanto riguarda la cura del territorio e dell'ambiente che ci circonda. E vabbè, Donne in Campo è un'associazione, cioè una sottoassociazione della CIA, che è la Confederazione Italiana Agricoltori, e che appunto coniuga letteralmente ecologia e femminismo, quindi magari anche senza chiamarsi tale è comunque un movimento, anche quello ecofemminista. E adesso che abbiamo un po' bene in mente chiaro il quadro della situazione, di cosa stiamo parlando, possiamo entrare nelle difficoltà di questi termini, nelle difficoltà soprattutto di non cadere nella tentazione di essenzializzare un discorso. Per cui abbiamo detto e citato all'inizio che l'ecofemminismo parte da una critica a tutta una serie di binarismi che sono parte costituente della cultura e dell'ideologia del modo di pensiero occidentale e soprattutto delle sue derive patriarcali, patriarcali, capitaliste, eccetera, eccetera. Quindi queste dicotomie uomo-donna, essere umano, natura, razionalità e irrazionalità, noi abbiamo parlato moltissimo anche della dicotomia sguardo, ascolto, vista e sentire corporeo dell'orecchio ma anche di tutto il corpo. E quello che le accomuna è un po' l'idea di mettere da una parte il razionale e dall'altra l'irrazionale, quindi per rilacciare sempre alla musica, sguardo razionale, ascolto emotivo, affettivo, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che il movimento ecofemminista critica è proprio questa dicotomia e va a invece ricostruire un sistema unico che parte dalla cura, eccetera, eccetera. La domanda è, ma non è che lo riafferma andando a pensare per esempio che ok, questo movimento ecofemminista perché è una donna che fa delle battaglie ecologiche, o andando a essenzializzare l'idea della soggettività femminile come una soggettività femminile vicina alla natura e quindi a ricreare questa dicotomia donna-natura? Come si fa a evitare questa trappola, pur facendo comunque un discorso ecofemminista? Appunto il problema dei dualismi è qualcosa di veramente subdolo, perché determinano una subordinazione, no? Quando andiamo a parlare di questi dualismi uomo, donna, uomo, natura, occidentale, indigeno, si crea poi proprio una gerarchia, no? Tra questi, subdolo perché riesce proprio a plasmare poi l'identità dei soggetti che fanno parte di questi dualismi e poi ovviamente questi dualismi vengono strumentalizzati, nel senso che la metà inferiorizzata poi è assoggettata al volere del soggetto dominante. E è problematico, no, il fatto che ci sia questa associazione poi della... È problematico il fatto che poi la donna venga associata alla natura in quanto essere irrazionale, perché poi appunto c'è questo tema della razionalità che viene dotata sempre al soggetto dominante della relazione. E perché quando io associo e identifico in uno stesso donna e natura e le, diciamo, sottometto nello stesso modo, e in più appunto questa assimilazione causa anche un allontanamento da parte degli uomini nei confronti della natura o dell'essere femminile in generale, e cambia, no, molto appunto il modo di percepirsi. E c'è poi anche il problema di sempre riflettere alla donna come la curatrice della natura, il concetto della madre terra, oppure il concetto latinoamericano della Pachamama, così. C'è anche più forse lo sguardo orientalizzante, sì, verso il concetto della Pachamama, sì, cioè lo sguardo occidentale su quel concetto. Ancora più alienante. Sì, sì. C'è questa leader del movimento del femminismo comunitario, Adriana Guzman. Il femminismo comunitario è un tipo di femminismo che, appunto, latinoamericano, che rivendica l'autonomia delle donne indigene contro il patriarcato ancestrale e denuncia il sistema di oppressione macista che esiste dentro le comunità indigene e focalizza la propria lotta non tanto sul raggiungimento della parità di genere, ma proprio più sull'opposizione al patriarcato che identifica come il sistema di tutte le oppressioni. E lei fa una riflessione su questa associazione donna-terra e scrive nel manifesto del femminismo comunitario: denunciamo la comprensione di Pachamama solo come sinonimo di madre terra, che è un concetto che cerca di ridurre la Pachamama, così come le donne, alla funzione di utero produttore e riproduttore al servizio del patriarcato, inteso come qualcosa che può essere dominato e manipolato al servizio dello sviluppo e del consumo, e non come principio di vita di cui l'umanità è solo una piccola parte. E quando poi si parla di binarismi, cioè appunto c'è... Si va magari a creare anche questa alienazione maggiore da parte del uomo maschio. E un altro saggio, un altro scritto da citare, è, che spiega benissimo l'idea che c'è dietro questa necessità di superare il dualismo e il binarismo di genere, è Femminismo o morte? Di François de Bon, che è il manifesto dell'ecofemminismo, questo libro, e lei, per spiegare questo concetto, scrive: con una società finalmente al femminile, che rappresenterebbe il non potere e non il potere alle donne, si proverebbe che nessun'altra categoria umana avrebbe potuto realizzare la rivoluzione ecologica, perché nessuna ne era così direttamente interessata a tutti i livelli. Le fonti di ricchezza, dirottate al beneficio del maschio, tornerebbero a essere espressione di vita e non più produzione di morte. E l'essere umano sarebbe finalmente trattato innanzitutto da persona e non come maschio o femmina, prima di ogni altra cosa. E il pianeta, volto al femminile, rifiorirebbe per tutto. Vuoi dirci di più di questo femminile come non potere? Invece che un femminile alla girl boss o alla Giorgia Meloni, che forse è più maschile, che cioè sempre quel patriarcale lì. È il mulino che vorrei. Nel mulino qualcosa che vorrei. Qualcosa che appunto riesca a superare questa idea di acquisire potere. Cioè, l'ecofemminismo non intende rafforzare il concetto di leadership femminile, vuole proprio superare questo stato nel quale viviamo, questo sistema economico che sta danneggiando noi quanto il pianeta, e per superarlo propone un mondo utopico, cioè propone un'economia che è di cooperazione e non di competizione, che antepone la complessità, l'omogeneità e che pone come primo obiettivo la cura dei beni comuni, e eliminando l'idea di proprietà. E non mira alla parità di genere, magari idealizzata dal femminismo occidentale, dal femminismo Frida, Barbie, cioè se l'uguaglianza, se la parità di genere consiste nell'avere lo stesso potere del maschile, identificato come un maschile X, un maschile di violento, usurpatore, colonizzatore nei confronti del territorio, se la parità di genere consiste nell'avere lo stesso potere nel danneggiare il vivente, io non la voglio. E per superare il problema del binarismo, no? C'è Val Plumwood, che è questa saggista di temi di ecologia politica, che quando fa la sua riflessione sulla problematicità dei binomi, dei dualismi, per risolverli propone la costruzione di un io ecologico relazionale, cioè riuscire a creare, a, diciamo, basare le nostre identità sulle relazioni con questo altro, e facendo sì che riusciamo a riconoscere questo altro come questo altro vegetale, questo altro diverso, questo altro ecologico, come qualcosa che è dotato di agentività, che ha una propria intenzionalità, e a riconoscere la dignità intrinseca di ogni essere differente. E questo. Ti ringrazio per aver parlato di utopia, che è un'altra parola che è ricorsa molto in questo programma radio. Già dal nome Club Chimera l'idea era proprio quella di pensare a delle possibilità nuove, a dei mondi nuovi, a delle chimere, quindi delle immaginazioni che possano aprire una possibilità di un altro, un diverso. È una parola anche che è ricorsa nel momento in cui abbiamo parlato anche della nascita di generi musicali e di tutto le possibilità di immaginario che questi generi musicali aprono. È una parola che tra me e lui, prima abbiamo detto nel mulino che vorrei, nei nostri appunti c'è proprio scritto nel mulino che vorrei, che è uscito così mentre parlavamo per preparare la puntata, ma è un altro sinonimo appunto di utopia, di chimera. E è anche interessante come forse il minimo comune denominatore tra le varie puntate e gli altri argomenti è il fatto che questo altro, questo mondo, questo immaginario utopico può essere raggiunto posizionandosi prima nel margine per poi ritrovare una complessità e un'unione che ci dà di nuovo gli strumenti per risolvere il problema dei binarismi. Cioè, nel momento in cui si parlava appunto delle dicotomie tra occhio e orecchio, io avevo proposto quello di partire dall'ascolto o comunque partire dal corpo, non come un opposto all'occhio e allo sguardo, non per dire cattivo sguardo, cattiva oggettificazione, ma per dall'ascolto ritrovare una complessità del corpo che è posizionato in un ambiente e ricostruire quindi poi quella complessità. Ed è un po' lo stesso che stiamo facendo adesso, l'idea di partire dal femminile, non inteso come un'essenzializzazione della soggettività donna con la D maiuscola, in cui forse non si crede neanche, anzi molto probabilmente non si crede neanche, ma di partire appunto da un femminile inteso come un margine rispetto a questa cultura patriarcale e oggettificante e strumentalizzante di tutto appunto quell'altro, che sia una soggettività oppressa, che sia l'ambiente naturale intorno a noi. Va bene, allora direi che, avendo raccontato un po' del movimento, degli immaginari, le utopie e le proposte che da questo movimento possono scaturire, possiamo ritornare nuovamente al mondo dei suoni, e quindi in questo caso un mondo dei suoni informato da questa prospettiva ecofemminista. Un mondo dei suoni che, appunto, come dicevamo, ci riallaccia tramite l'ascolto a tutta una relazione e interrelazione con il mondo intorno a noi nel momento in cui riconosciamo la gentilità dei suoni che ci circondano e gli effetti che questi suoni possono avere su di noi. Prima di sentire da lui di più sulla traccia che abbiamo ascoltato finora e quindi sui suoi progetti musicali, mi piace giusto, vorrei giusto ricordare questo album di cui ho riletto per caso su Instagram oggi, che però trovo molto interessante e molto pregnante per oggi. L'album è del 1970 ed è Songs of the Humpback Whale, quindi canzoni della megattera, ed è del bioacustico Roger Pine, che in pratica ha creato un intero album registrando i suoni dei canti delle balene. E quindi con questo album ha intanto aumentato, cioè permesso di studiare di più il linguaggio e le interazioni tra le balene, né in quegli anni anche risvegliato un po' le coscienze riguardo alla caccia delle balene. E comunque, non lo so, credo che sia un'occasione di ascolto appunto per ritrovare questa connessione con la gentilità del suono e tramite la gentilità del suono con la gentilità degli ambienti, dei territori che ci circondano. Adesso quindi ti passerei di nuovo la parola per raccontarci un po' invece quali sono stati i tuoi progetti eco-fem musicali, possiamo forse così definirli, e anche iniziare a guidarci verso l'ascolto che avverrà oramai tra pochi minuti. Okay. Rispetto al progetto musicale ecofemminista, se vogliamo chiamarlo così, c'è stata l'occasione l'ottobre scorso di partecipare a una residenza artistica che è stata organizzata da Zoe De Luca. E lei è una curatrice ed è una scrittrice indipendente che si occupa di tematiche di queer ecology, che è questo modo di rivalutare il nostro approccio alle relazioni con l'ambiente, il nostro modo di analizzarlo e creare delle regole, e quindi è un modo per distruggere regole e trovare un nuovo approccio più pacifico nella nostra relazione con la natura. E appunto lei ha organizzato questa bellissima residenza artistica che era dedicata a queste tematiche, e in fondazione Lac aux Lemon in provincia di Lecce. Ci sono state diverse proposte, diverse pratiche, tutte molto magiche. Abbiamo composto paesaggi sonori, ci siamo perse nel verde, nel giardino della fondazione, giocando a nascondino, cercando di rivalutare tutte le nostre relazioni con l'ambiente circostante. Abbiamo prodotto degli erbari queer, dove abbiamo creato nuovi modi di analizzare le piante che trovavamo in giro, il materiale organico, così. Abbiamo usato del materiale organico per creare dei talismani, abbiamo dato nomi alle stelle, abbiamo fatto un sacco di cose bellissime che hanno permesso di riallacciarci con l'ambiente in un modo totalmente nuovo, senza definizioni, senza regole, e percependo l'altro ecologico in un modo molto più amorevole e sentito. E in questa residenza artistica la pratica che avevo proposto era appunto, credo si possa chiamare installazione sonora. Ho allestito una stanza, quindi un luogo chiuso, con vari materiali organici, un po' raccolti da vivai che se ne stavano sbarazzando, e un po' raccolti da questo giardino meraviglioso della fondazione. E in questa stanza veniva riprodotta la traccia che si sta ascoltando adesso come sottofondo. E l'idea era che le persone che entravano in questa sala potevano sentirsi appunto libere di interagire con lo spazio come meglio credevano. E mi interessava capire se attraverso la musica, attraverso queste reminiscenze di paesaggi sonori, di ambienti naturali, eccetera, si potessero sentire un pochino più coinvolte da quello che ci circonda. E l'obiettivo, forse un po' troppo ambizioso, era che si potesse superare questa divisione tra umano e naturale e riconoscersi un po' come un tutt'uno, anche grazie al suono che comunque abbracciava un po', no, le esperienze dentro questa sala. Ed è stato molto divertente vedere come le persone interagivano nello spazio, come interagivano con gli oggetti, eccetera. E un simbolo dell'installazione per me è stato questo specchio, di cui non si potevano vedere, cioè non si potevano riconoscere i bordi, perché i suoi confini erano, diciamo, sfumati in terriccio, piante, altro materiale organico. E quindi diciamo che le persone girando nella stanza un po' incontravano quasi per caso questo specchio, e era un po' il simbolo del ritrovarsi, del riconoscersi in questo io ecologico, relazionale, e di non riuscire più a percepire la fine di qualcosa e l'inizio dell'altro, e sfumare i confini in questo modo. E questo è stato una bella occasione per sperimentare nuovi modi di relazionarsi con l'ecologico in generale. E vuoi raccontarci invece della musica che stiamo per ascoltare adesso, che forse nel nostro not so naturale centro culturale milanese non ci porterà una relazione con l'ecologico inteso come natura, ma forse l'obiettivo che avevamo pensato noi è quello di creare un viaggio sonoro, comunque una direzionalità sonora che porti a un ricollegarci con l'ecologico inteso come ambiente, stanza, persone con cui siamo e con cui andremo avanti da qua alle prossime orette. Vediamo come va. Diciamo che c'è adesso l'idea di produrre questo set, che è un mix di ambient, classica sperimentale. E l'idea è per chi avesse voglia di rimanere in ascolto, ovviamente, di tentare di mantenere la concentrazione sintonizzata sul sentire, magari di riuscire a percepire per questi circa 40 minuti di set la differenza che c'è tra sentire e ascoltare. E per farlo, ovviamente, sentitevi libere di gestire il vostro ascolto come meglio credete, e anche il vostro movimento nello spazio come il corpo vi suggerisce di fare. E però magari qualcosa che può essere interessante per cercare di mantenere, diciamo, questa attenzione, appunto, di rimanere sempre vigili, no? Sull'ascolto, può essere continuare a farsi domande sui suoni che si stanno percependo, ad esempio da dove arrivano questi suoni, se sono suoni di acqua, di terra o di aria, se questi suoni sono esterni a voi o se sono interni, se questi suoni hanno un luogo di origine, magari hanno anche un luogo di destinazione, e immaginare il loro viaggio tra questi due punti. E niente, l'ultima accortezza è: ascoltate come meglio credete, se vi va di chiudere gli occhi potete farlo, se vi va di sdraiarvi, restare in piedi, ballare, si può fare tutto. E niente, buon ascolto. Grazie mille intanto, Lu. Grazie a te, amo. E anche per chi eventualmente ci sta ascoltando online e arrivando verso Exalge, fate in fretta per questi 40 minuti di set e dopo continueremo a passare dal meditativo introspettivo a energie più verso il fuori e la comunità, piccola comunità che creeremo stasera. E grazie ancora, buon ascolto. Thank you. Thank you. spessa era nera l'aria. Stretched to an echo, so no one remembers how language used to land. The sand is out the packet new, branded with my shoes. Maybe the sun is knackered too, like each of us, wrapped up in our work and ourselves. Dreaming of being shelled from our backpacks and swallowed by the beach. Maybe it's a parent, too tired to keep playing the lies through their teeth. Because all pain is small change in the cost of wonder. Rising somewhere else while we see it sleep. Returning its light in the nick of time, so that not a grain is lost, not a bloat of cloud burst, not a wave out of place. I must be the first. Everything I have was given to me clean. Like the sky burns just to blush my face. I have held it up, ungloved, crushed seaweed beneath me, breathed in the beach until I have a new set of lungs. But I have never wiped sunrise down my jumper to get rid of fingerprints. I never took my shoes off as I came in. Begin to let go of noises around you. Begin to shift your attention from outside to inside yourself. If you are distracted by anything in the room now, simply notice this and bring your focus back to your breathing. Now slowly bring your attention down to your feet. Begin observing sensations in your feet. You might want to wiggle your toes a little, feeling your toes against your socks or shoes. Just notice, without judgment. You might imagine sending your breath down to your feet, as if the breath is traveling through the nose to the lungs and through the abdomen all the way down to your feet and then back up again out through your nose and lungs. Perhaps you don't feel anything at all. That is okay. just allow yourself to feel the sensation of not feeling anything. When you're ready, allow your feet to dissolve in your mind's eye and move your attention up to your ankles, calves, knees, and thighs. Observe the sensations you're experiencing throughout your legs. Breathe into and breathe out of the legs. If your mind begins to wander during this exercise, gently notice this without judgment and bring your mind back to noticing the sensations in your legs. Observe how all sensations rise and fall, shift and change, moment to moment. Notice how no sensation is permanent. Just observe and allow the sensations to be in the moment, just as they are. Breathe into and out from the legs. On the next out-breath, allow the legs to dissolve in your mind and move to the sensation in your lower back and pelvis, softening and releasing as you breathe in and out. Slowly move your attention up to your mid-back and upper back. Become curious about the sensations here. With each out-breath, you may let go of tension you are carrying, and then very gently shift your focus to the chest and heart region and just notice your heartbeat. Observe how the chest rises during the inhale and how the chest falls during the exhale. Let go of any judgment that may arise. On the next out-breath, shift the focus to your hands and fingertips. See if you can channel your breathing into and out of this area, as if you are breathing into and out from your hands. If your mind wanders, gently bring it back to the sensations in your hands. And then, on the next out-breath, shift the focus and bring your awareness up into your arms. Observe the sensations or lack of sensations that may be occurring there. As you exhale, you may experience the arms soften and release tension. Continue to breathe and shift focus to the neck, shoulder, and throat region. Be with the sensations here. You may notice the shoulders moving along with the breath. As you breathe, you may feel tension rolling off your shoulders. On the next out-breath, shift your focus and direct your attention to the head and face. Notice the movement of the air as you breathe into or out of the nostrils or mouth. As you exhale, you might notice the softening of any tension you may be holding. And now, let your attention in a moment expand. You will open your eyes and come out of this state of stillness and peace. Thank you. Take a full, deep breath, taking in all the energy of this practice. Exhale fully. Breathe in deeply again, feeling your body expand with air. And when you breathe out, just let the breath go. Breathe in deeply once more. And when you breathe out, feel into your body. Feel the gentle rhythm of the breath as it moves through the body. Take a few moments to breathe, to connect to your body fully. And when you breathe out, bring your awareness to the weight of your body and the space that you're in. Gently wiggle your fingers and toes. Gradually open your eyes when you're ready. And return your attention to the present moment. As you become fully alert and awake, take a moment to notice how you feel. Floating.